24 mattino. Ha smarrito la bussola, gli dice: ma perché hai lasciato il partito? No, scusa, il partito non c'è più, sono molti anni il partito. Non c'è più. Poi abbiamo avuto dei partiti, un'altra cosa, diciamo, con la P minuscola, ma il partito con la P maiuscola non c'è più. Ecco, mentre parte questo meraviglioso blues, ieri Massimo D'Alema ricordava un militante importante nella storia della sinistra, ricordava Alberto Menichelli, il caposcorta di Berlinguer, e si è lasciato sfuggire questa battuta: il partito con la P maiuscola non c'è più. Ma poi oggi su Il Corriere della Sera una paginata di intervista ad Aldo Cazzullo, un rullo di tamburi e di guerra: mai alleati con il PD sarebbe un disastro, Pisapia si candidi e sia più coraggioso. Bene, ne parliamo fra poco. Parto con la solita panoramica, perché oggi è molto variegato il parterre dei giornali. Allora, La Stampa sceglie un'apertura internazionale: il manifesto di Macron per l'Europa. Il presidente francese: rilancio l'Unione Europea con difesa comune, diritto asilo e procura antiterrorismo. Questa è La Stampa. Pensate, Il Fatto: concorsi fantozziani, gioco di parole perché nello scandalo dei concorsi che continua a crescere, oggi come sapete è apparso anche il nome dell'ex ministro Augusto Fantozzi. Concorsi fantozziani contro i Tremonti Boys. È incredibile come queste battaglie poi abbiano sotto delle radici. Allora, marciano a favore dell'aborto e fanno la guerra agli anziani. La Verità: vivono tanto e vivono male, così gli anziani soffrono in Italia. E si parte da un'indagine dell'Istat, anche questo è interessante. Un altro titolo del Fatto, che non è l'apertura tecnicamente ma il titolo centrale: il PD è in bolletta e Renzi parte su un treno da 400.000 euro. La Repubblica: no di Alfano, questa è la scelta di Repubblica. Affonda lo Ius Soli, l'abbiamo in qualche modo sentito, ma è il tema del giorno. Addirittura due editoriali durissimi: Calabresi e Zio Mauro. Il Corriere della Sera: lavoro e alloggio a 75.000 profughi, piano del governo. Poi c'è il fondo del Corriere di oggi, che è più sulla legge elettorale, sono quelle cose per specialisti: coalizioni in cerca di scopo. Si parla ovviamente degli scenari aperti dalla legge elettorale. Arriva la mafia nigeriana e batte la nostra, è il colmo. Mentre esplode lo scandalo lombardo, Libero sceglie di puntare sulla mafia nigeriana. L'Italia perde il primato pure in campo criminale. Grande Senaldi, vabbè, dobbiamo chiamarlo. Allora, il Messaggero invece: alloggi e sanità, il caso dei profughi. Ovviamente vi segnalo subito, oggi è il compleanno di Totti e c'è un monumentale supplemento del Corriere dello Sport. Auguri Francesco, 41 anni, pensate, 32 pagine, ma voi ditemi quale giocatore non in attività viene ricordato così con 32 pagine. Avvenire: profughi integrati con diritti e doveri, qualunque cosa pensate la campagna che sta facendo Avvenire sullo Ius Soli. Non si muove di un millimetro il giornale di Tarquinio. E Il Foglio, infine, il grande inno alla gioia di Macron. E poi Il Fondo di Ferrara, che svirgola tutto sulla Germania: l'argine del populismo buono. Scusate, dice Rasa, dopo la Germania noi, l'Europa anti-Cav, scopre che le speranze di evitare un becero governo populista passano anche da Berlusconi. Allora, da dove partiamo? Avete visto che il piatto è ricco e ci si può ficcare, ma dobbiamo partire dallo Ius Soli, ovviamente, quindi da Repubblica. Il no di Alfano. Parto subito con Calabresi, perché c'è la notizia e c'è anche l'interpretazione che ne dà il quotidiano di Largo Fuchetti. Chiamiamo le cose con il loro nome, senza giri di parole, senza finzioni. Mario Calabresi, Repubblica. Ha vinto la propaganda della Lega. ha vinto la furbizia di Grillo e Di Maio, la paura, le mistificazioni. Hanno perso 800.000 ragazzi, la politica che ha il coraggio di scegliere è uno scampolo di idea che si poteva ritenere di sinistra, ma perfino di centro. Certo, scrive Mario Calabresi, che come vedete è furibondo, mai un tono così in un corsivo del direttore di Repubblica. Certo, la legge è stata affondata da Angelino Alfano e il suo piccolo partito in cerca di una casa che garantisca di poter sedere ancora al tavolo del potere nella prossima legislatura. Ma questo è successo anche perché il Partito Democratico non è stato capace di indicare le proprie priorità a un alleato che ha incassato enormemente più di quanto valga. E basti pensare alle poltrone ministeriali collezionate da Alfano, al cui confronto impallidiscono i big della Prima Repubblica. Non mi fa ridere, perché quando si mena così il giornalismo è bello. Le poltrone incassate da Alfano. Allora, dentro, per avere un'interpretazione, ovviamente chi vuole sentire friggere e menare le mani se lo deve leggere tutto questo fondo, un fondo animato da passione civile di Mario Calabresi, il no di Alfano affonda lo Ius Soli, farlo ora è un regalo a Salvini. Il ministro vira verso le posizioni di Berlusconi, racconta Carmelo Lo Papa nella sua nota. E AP si spacca, il PD cercheremo comunque voti al Senato, e qui c'è un altro retroscena di Repubblica che farà arrabbiare il centrodestra, perché già erano partite le critiche nei giorni scorsi, ed è quello di Goffredo De Marchis. Gentiloni non si arrende, punto all'asse con il Vaticano, cioè non riesce a fare ordine nella sua maggioranza e punta all'asse col Vaticano. Goffredo De Marchis, Repubblica, pagina 3. Il pressing continuerà. Quante volte Alfano ha detto che le unioni civili non sarebbero mai passate? Oggi sono legge. È il ragionamento di Paolo Gentiloni. Non è finita finché non è finita, dunque, secondo il celebre motto del campione di baseball degli Yankees, Yogi Berra. E il no definitivo di Alternativa Popolare, visto da Palazzo Chigi, non chiude affatto i giochi. Certo, non li facilita, ma che sarebbe stata dura si sapeva anche prima. Il punto, scrive De Marchis, Repubblica, è che ora le speranze si riducono. Eppure il pressing non vuole, il premier non vuole dichiarare la resa. Punta tutto sull'asse con il Vaticano e sul tempo che corre veloce verso le elezioni, ma lascia ancora margini di manovra. Papa Francesco ha sposato la linea sui flussi migratori adottata Marco Minniti e allo stesso tempo insiste sullo Ius Soli. Lo confermano le parole del presidente della CEI, ecco questa è la novità, Gualtiero Bassetti. Gentiloni si prepara e mette un altro mattoncino fra una settimana. Il presidente del Consiglio, attenzione, questo è importante, è un'altra data cruciale, sarà il 4 ottobre ad Assisi per la festa di San Francesco. Terrà il discorso alla nazione sotto la Basilica in diretta TV. Ci sarà il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin. Ci saranno i frati del convento e in quell'occasione solenne Gentiloni pronuncerà un intervento sull'inclusione e sull'integrazione. Ho letto con molta attenzione perché guardate che in questi giorni si decide lo scenario, secondo me, che porta alle elezioni politiche. Allora, Repubblica, e fra l'altro lo avremo ospite fra poco, Matteo Orfini, è una scelta molto grave, il governo deve porre la fiducia. Sì, perché tutto questo dibattito si regge sul fatto che se il governo ponesse la fiducia scopriremo se quello di AP è un bluff oppure no. Allora, era molto importante questa apertura, oggi i giornali, diciamo, si dividono il campo. Ed è sicuramente Repubblica che dà più attenzione politica con un'interpretazione e una lettura a il caso. Però lo scandalo di cui tutta l'Italia parla è quello ovviamente della Lombardia. Il costruttore, i contatti al Pirellone, dice Mario che pensa a tutto lui. Sembra una lingua di mafia, invece è il Corriere, pagina 3, la cronaca bella di Cesare Giuzzi. Che racconta che cosa è successo, cosa è potuto accadere con Edoardo Mazza, il suo aperitivo elettorale, i suoi rapporti con le cosche di origine calabrese, che dicevano, questo è un titolo che mi ha molto colpito, stiamo trasformando Milano nella Calabria. È una brutta idea, ovviamente, della Calabria che avevano. I politici al servizio delle cosche. L'altro pezzo, firmato a quattro mani da Andrea Galli E sempre Cesare Giuzzi, Corriere, pagina 2, e qui dobbiamo leggere qualcosa. L'ultimo sistema di potere e controllo del territorio scoperto dalla direzione distrettuale antimafia di Milano e della procura di Monza aveva occupato letteralmente, sto leggendo al Corriere della Sera, il comune di Seregno, travolto dalla corruzione e l'abuso d'ufficio e prossimo al commissariamento. Voti pilotati nella giunta di centrodestra attraverso mediatori, tra virgolette, per avere le piedine più in alto possibile. Sindaco e assessori erano amministratori pubblici, ma Zerbini, per citare i PM, del potente di turno. Fossero imprenditori immobiliari, andranghetisti, quei voti poi garantivano la possibilità di gestire la macchina municipale, intervenire sui piani regolatori, modificare aree per realizzare interventi dal guadagno milionario. E questo è la storia, il ritratto, se volete il ritratto, ancora Galli, hanno fatto gli straordinari al Corriere, il sindaco dei programmi per la legalità diventava lo Zerbino per favorire i boss. Sì, perché Edoardo Mazza è una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, agitava le forbici, faceva la voce grossa e poi era prono, piegato soltanto ai poteri criminali. Allora, quel Gatti, racconta Galli sul Corriere della Sera, andava premiato con la presidenza di una commissione. Cazzo ne so, può andar bene la cultura? Domandava a Lugarà l'avvocato civilista Edoardo Mazza. Lugarà, ovvero il sindaco dell'antistato, e Mazza, il vero sindaco di questo comune di 45.000 abitanti, fra i più produttivi del nord di Milano, classe 77, sconosciuto fino a ieri, e ai domiciliari quando sono arrivati i carabinieri. Sentite, aprite le orecchie, siete in macchina, siete al volante, siete per la strada. È svenuto dalla paura, poverino, svenuto dalla paura. Vergogna. Allora, pubblicità e meteo e torniamo, perché oggi ce n'è veramente tante. Mattino. Qui sono fatti in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno? No, lo so. Non per dire, per carità, poveracci, ma io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbò. Ciao. Sciacalli oppure vampiri, ve lo ricordate Piscicelli, quello che rideva la notte del terremoto dell'Aquila, si fregava le mani pensando all'appalto? Sono tornati gli sciacalli, ne parliamo da due giorni, ma oggi ancora per fortuna i giornali pestano sulla testa su questi simpaticoni 120 indagati che si sono fatti dare la residenza finta, la residenza finta da Amatrice per poter beccare il sussidino, il sussidio, 900 euro se avevi una famiglia per la casa crollata, quello che serviva per la prima necessità. Ci sono due storie oggi che voglio tenere in parallelo e raccontarvi entrambi. Allora, le indagini, Massimo Malpica, inviato del giornale Arrieti, giustamente il giornale Sallusti ci fa le due pagine di apertura, che racconta senza vergogna il nutrito gruppetto di furbetti che si è accaparrato per mesi il CAS, contributo all'autonoma sistemazione concesso a chi ha perso la casa nel sisma di un anno fa. È l'ultima frontiera dello sciacallaggio. A scoprirlo è stato la procura di Rieti con il suo capo ufficio Giuseppe Saleva, che di fronte all'anomalia quantitativa di chi aveva richiesto il contributo aveva deciso di controllare, scoperchiando così un calderone zeppo insospettabili sciacalli, almeno 120 persone, quasi tutti romani, quelli che senza farsi alcuno scrupolo, sto leggendo Malpica, hanno pensato di lucrare sul terremoto. Almeno perché, spiegano in procura, le verifiche incrociate sono ancora in corso. La convinzione è che il numero degli indagati, attenzione, possa e debba salire. Quando dopo il terremoto è saltato fuori che il contributo per chi era rimasto senza un tetto spettava a chi aveva la residenza, la pattuglia dei senza vergogna, racconta Malpica, non ha resistito alla tentazione e tutti hanno autocertificato la propria residenza da matrice o da cumuli in data anteriore al 24 agosto, giorno della scossa. Il tutto per intescare un aiuto ovviamente riservato a chi ne aveva davvero bisogno, una somma fra i 400 e i 900 euro secondo il nucleo familiare. Una residenza però i 120 ce l'avevano già ed era da un'altra parte. Però voglio saltare il pezzo, sarebbe da leggere tutto, ma questa è una delle storie, e ce la racconta sempre Malpica. Fra questi una coppia di Roma, marito e moglie. a chiedere che casa era stata lei, dichiarando di essere residente ad Amatrice, dove la coppia aveva una casa, mentre il marito è residente a Roma, all'indirizzo reale dei due. In questo modo, fa notare la procura e ce lo racconta Malpica sul giornale, oltre al vantaggio di non pagare l'IMU in nessuna delle due abitazioni e di poter avere le utenze alle tariffe più basse previste per la prima casa, la coppia ha anche ottenuto il contributo per l'affitto non dovuto. Vergogna, vampiri come quelli che cantava splendidamente Sting. No, no, no, voglio restare qui, fammi risentire ancora, perché l'altra storia incredibile è quella della nonnina del container. Vi ho detto che le tenevo in parallelo. A 94 anni la cacciano dal suo container, non è autorizzato. Ne abbiamo parlato con Mario Giordano, ma se vi siete collegati adesso, eccolo, Carlo Gambi sulla Verità. Tra 4 giorni, pagina 9, Peppina, ribattezzata Nonna Terremoto, sarà sfrattata dalla sua casetta di legno. Non c'è possibilità che lo Stato tolleri il suo scellerato abuso edilizio. Sabato, la casetta, sono 3, sarà demolita e lei deportata. Ma non perché Peppina, 94 anni, sulle spalle sono ancora dritte, incorniciate da una nuvola di riccioli, abbia commesso un abuso, ma perché ha costruito una casa nel giardino della sua proprietà chiedendo i permessi. L'ultimo non era arrivato e quindi adesso scatta l'ordine di demolizione. Queste sono le due storie del terremoto che volevo darvi e, insomma, veramente, cioè vergognarsi. Moni, ora sì. Il Sole 24 Ore, che titola giustamente a tutta pagina sulla più importante vicenda economica nazionale in questo momento, una vicenda industriale, ma in questa rassegna stampa si raccontano le cose serie, a Fincantieri il controllo di STX, una maxi alleanza Alstom Siemens. Sono temi importanti, però ovviamente l'STX, come sapete, è quella società francese, ma era in mano ai coreani che Fincantieri, industria italiana di eccellenza, aveva comprato e su cui Macron, il ministrone, il presidentone francese, aveva posto il suo veto. Gentiloni oggi al bilaterale di Lyon, primo accordo, e però su questo accordo bisogna entrare. Allora, Celestina Dominelli e Laura Serafini sul Sole vi spiegano subito i termini della questione. Il bilaterale Italia-Francia sul dossier Fincantieri STX di scena oggi a Lyon getterà le basi sulla futura intesa cross-border sul polo della cantieristica civile e militare. Ieri si è registrato su questo tema anche l'ottimismo del premier Paolo Gentiloni, intervistato dai periodici francesi. Abbiamo l'ambizione, ha detto Gentiloni, di costruire un grande player globale nel settore navale. L'accordo sui cantieri è una prospettiva a breve termine. Costruire un grande polo civile e militare non si fa in un giorno solo. E alle parole del premier sono seguite quelle del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: comprendiamo gli interessi degli altri, purché non siano a danno di altri. Ecco, segnatevi questa frase, perché Boccia l'ha studiata e pone il grande problema. Il problema è chi comanda, e su questo i giornali danno letture diverse. La Stampa, pagina 4, Fabio Martini, inviato a Lyon: a Fincantieri il controllo, ai francesi il diritto di veto. Ecco qua i termini della questione. Fabio Martini, pagina 4, Stampa. Scherzosamente, ma riservatamente, la chiamano la clausola salvaface e l'escamotage che francesi e italiani hanno studiato per garantire una governance STX che consenta a entrambe le parti di cantare vittoria, soprattutto di aver mostrato i muscoli gli uni e gli altri nelle settimane scorse. Escamotage complicato che richiede ricami lessicali, ingegneria azionale, anche se la cosa che servirebbe di più a questo punto sarebbe garantire operatività e nuovi input alla società contesa. È fantastico Martini quando in 5 righe ti spiega qual è il problema. Uno si piglia la governance, l'altro la proprietà. Ma il giornale lancia su questo tema un grido di allarme. e dobbiamo andare a pagina 21, e è un'altra interpretazione, un'interpretazione più pessimistica, ed è, ce la fornisce Camilla Conti. Vittoria di Pirro per Fincantieri su STX: fallisce l'obiettivo, vanno in Francia gli ordini militari, borsa giù meno 2%, ovviamente dice intende l'obiettivo. Allora abbiamo ancora un altro cambio di passo, perché ci sono altri temi importanti. He doesn't understand the power that he has. He doesn't understand how many kids, no matter the race, look up to the president of the United States for guidance, for leadership, for words of encouragement. He doesn't understand it. E questo è il problema grosso dell'America, degli Stati Uniti, la guerra che sta verificandosi su un tema molto importante. Ma io sono molto attento ai simboli. Quell'inchino irriverente che smonta la retorica del macho guerra fondaio è la guerra che in America il football americano sta lanciando all'inno. Su questo è intervenuto ovviamente il presidente Trump e Mauro Kovacic su Corriere. Questo è un bel fogliettone che uno si legge, via Dio, pagina 14. Meraviglie del genere umano. Ogni tanto nasce un gesto inaspettato che diventa per tutti il segno eloquente di un pensiero, e così all'improvviso viene assunto nella comunicazione collettiva, ripetuto e condiviso. Avviene d'un tratto, senza che sia possibile individuarne l'inventore, il quale spesso è inconsapevole o comunque non in grado di prevederne la portata. Questo gesto, ve lo dico subito perché ovviamente la scrittura ignora le 5V del giornalismo, è l'inginocchiamento per protesta durante l'esecuzione dell'inno americano. È un gesto di fatto anonimo che l'umanità regala a se stessa. Ancora più incredibile è quando tutto ciò che avviene rovesciando, verrebbe da dire riqualificando, un gesto collaudato da secoli, uguale in ogni epoca e latitudine, di solito ci si inginocchia in segno di reverenza, in segno di sottomissione, invocando il perdono, oppure si finisce in ginocchio a causa delle avversioni, dei debiti, delle malattie, della prostrazione. Nessuno poteva immaginare che inginocchiarsi in America sarebbe diventato un gesto di ribellione. Ribellione a Trump, ovviamente, e chi si vuole leggere questo pezzo deve sapere che il nodo importante è la protesta contro l'inno, che è una protesta anche contro il presidente, contro l'America di Trump. Giusto o sbagliato, ovviamente si può discutere a lungo. Stiamo portando a Calabria, qui a Milano l'avevo letto. Prendiamoci il bottino, così la lobby dei docenti manipolava i concorsi. Il Messaggero, pagina 12. Più si scava in questa inchiesta, più arrivano notizie sconvolgenti. Ovviamente, oltre all'interpretazione del fatto e oltre ai rumors dell'inchiesta, c'è anche un attacco del giornale all'uomo che ha denunciato. Dicono, è un avvocato alla moda, si fa molta pubblicità. A me non me ne frega nulla se il test chiave dell'inchiesta Philip Romaiezzi si fa pubblicità. A me interessa, cari amici del giornale che fate questa polemica, a me interessa sapere se erano truccati o no i concorsi. Filippo Maria Pontani sul fatto: quella mafia accademica che batteva ogni riforma. Allora ci dobbiamo fermare per le strade e torniamo subito dopo. Mattino. Se mi mandano fuori dalla cassetta, dove vado? Speriamo che qualcuno mi aiuti. Ma è pazzesca, questa è la voce che Luca Sappino ha recuperato a tempo di record. Bisogna sentirla per sentire, sentite la voce tremula ma fortissima di nonna Giuseppina. Speriamo che qualcuno aiuti. E cose interessanti sulla politica, diciamo, e tutti si candidano. Cosa diranno, onorevole Meloni, se lei scende in campo? Diranno che non possiamo arrivare alla presidenza del Consiglio, che io sono una donna, che sono troppo giovane anche se ormai sono una campana, che in ogni caso anche quando diventerò vecchia sono troppo bassa, che sono comunque troppo mamma, che sono troppo di destra, che Fratelli d'Italia è un partito troppo piccolo. E a Vabbè, lo diranno, ma intanto ci sono problemi a sinistra. Un retroscena è una notizia in esclusiva del Messaggero, pagina 8. Pisapia prepara l'addio ai bersaniani. Veramente qua siamo oltre Crozza, oltre Crozza. Però sulla legge elettorale, che è importante, quindi vi devo informare. Non mi dite, è noiosa, vi devo informare. Primo sì, ma si luri dall'asse MDP, Movimento 5 Stelle, spunta l'ipotesi della fiducia. Sarebbe gravissima una fiducia sulla legge elettorale, perché come sapete nella storia italiana è accaduto solo con il fascismo e con l'Italicum, che non ha fatto una bella fine, vedi Corte Costituzionale. Sempre sulla legge elettorale, il Rosatellum, un retroscena della Greco sul Giornale, e poi una notizia, il Giornale, pagina 10, Alemanno arrabbiato per la fiction su Mafia Capitale e la guerra di Patterson contro Amazon, per chi ama il problema delle nuove tecnologie, ve lo segnalo su Repubblica, pagina 36. Ma adesso proprio la mitragliata delle cose che mi sono piaciute di più e che sono importanti. Non è un gioco, qualcuno dice un gioco. No, è vero. Allora, quelle cose tipo, sai, buone notizie, film di Natale, commedia, il Giornale. In Argentina un vecchietto di 87 anni si è ricoverato il giorno del suo compleanno in ospedale. È andato al pronto soccorso e ha detto: mi sento male, male, no, malinconico. Allora l'hanno portato in corsia e gli hanno preso una torta. Ma queste sono cose fantastiche, cose belle per cui vale la pena di vivere. Il ricovero per malinconia. Lo strangolatore. Questa è un po' brutta, è su tutti i giornali, sul Giornale, sul Corriere della Sera, su Repubblica. Beh, questo è l'uomo che ha strangolato la sua fidanzata. Non sono ancora passati 2 mesi, gli hanno dato un braccialetto che non riesce a ottenerlo nessuno e lo hanno rispedito a casa, ai domiciliari. Ha ammazzato la fidanzata strangolandola, braccialetto e a casa. È una vergogna per tutti quelli che sono in carcere per aver rubato la mela, per le piccole cose, e magari perché non avevano un avvocato danaroso. I vegani, questa è una notizia che trovo sempre sulla Verità, hanno inventato l'uovo senza uovo. L'uovo senza uovo è un uovo di fibre vegetali, ma io non lo so, ma fate un'altra cosa, non inventate l'uovo senza uovo. Allora, la Caferri su Repubblica, questa è una notizia su cui gioire, ma che mette un po' di tristezza, la citavo prima perché mi ha proprio colpito. In Arabia Saudita, udite, udite, le donne potranno guidare. Ma stiamo scherzando? Cioè, ogni volta che si parla e si dice i nostri alleati contro l'integralismo, questo è il paese che è alleato nostro contro l'integralismo. Un paese in cui oggi, udite, udite, le donne potranno guidare. Allora leggetelo questo pezzo della Caferri su Repubblica, è molto importante. Ti viene in mente Dallano, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Qui siamo a vette altissime, fermatevi, preparatevi. Battute all'asta a 5.500 euro, La Verità, pagina 23, le mutande di Hitler. No, questa va letta nel dettaglio. Un paio di mutande, ci racconta Silvia Di Paola, di Adolf Hitler, sono state battute all'asta negli Stati Uniti e vendute per quasi $6.700. Il cambio ve l'ho già detto. La biancheria, sentite, era in ottime condizioni. Hanno tenuto a precisare i responsabili dell'Alexander Historical Auction di Chesapeake City in Maryland, dove sono state aggiudicate a un anonimo compratore. Sono molte le persone interessate ad accaparrarsi vestiti, manifesti, spille appartenute al dittatore nazista o anche solo millantate come sue. Le mutande, dove sono cucite le iniziali AH, sarebbero state lasciate da Hitler al parco del Di Graz in Austria, dove aveva alloggiato nell'aprile del 38. Hitler si era dimenticato le mutande nel 38 al parco hotel. Secondo il battitore d'asta Bill Panagopoulos, la biancheria fu inviata al servizio lavanderia dell'albergo, da dove sarebbe tornata dopo che Hitler e il suo staff se ne erano andati. Sono rimasti ai proprietari dell'hotel fino a oggi, quando il nipote del titolare ha deciso di venderle, le mutande di Adolf Hitler. Allora, vi dicevo del auguri Francesco, il compleanno di Totti. Fra un po' sarà studiato, dicevo, il supplemento, una pagina intera, e il supplemento dedicato dal Corriere dello Sport, ma ci sono ovviamente i giornali sportivi, tutti scrivono di questa cosa, dal primo gol fino all'addio, l'addio fra le lacrime, Totti per i cultori della materia. E poi la notizia del Napoli. Il Napoli ieri ha vinto 3-1 rispondendo all'infortunio di Milik, lo leggo dal Corriere della Sera, con una prova fantastica, grande gioco, grande calcio, siamo di nuovo forti in Europa, il titolo è una battuta meravigliosa di Troisi, ricomincio da 3, Feyenoord KO, il Napoli conquista i suoi primi punti. A me mi è venuta in mente quella voce meravigliosa di quel tifoso che era stato catturato da Tonino Carotone, che diceva dopo tanti anni vedo la vittoria del Napoli, ma ho sofferto per tutta la vita. Il calcio è anche questo, rimette a posto le cose, dà un po' di speranza, è un'industria alternativa che rompe il gap fra nord e sud. Allora, strade e GR, e torniamo con i cani e con i gatti.